apertura senza sigla. Grazie, grazie ai cortesi ascoltatori, grazie a tutti voi per l'attenzione che ci concedete. L'appuntamento rimane confermato per domenica prossima alla medesima ora. Grazie a Barbara Sorrentini che si è prestata ad una regia di emergenza. A te Oliva. Grazie a quanti ci hanno mandato idee, suggerimenti e complimenti. Andrea Zanardo, per esempio, che ci ha mandato un'email che cercheremo di interpretare, e Marco Andreoli, come sempre. Buona settimana a tutti.